Vincenzo Miglietta. .17:06 Focus Economia, ben trovati allora da Vincenzo Miglietta, un saluto ai nostri ascoltatori, puntata che arriva dopo il Natale, tre giorni da sabato a lunedì che hanno contribuito e se era possibile a rendere ancora più complicata la vicenda di Monte dei Paschi di Siena, grazie anche alle anticipazioni del Sole 24 Ore, sono nero su bianco però i contenuti della lettera della Banca Centrale Europea al Ministero dell'Economia. E qual è la novità? La novità è che a Monte Paschi non basteranno i 5 miliardi che intendeva chiedere al mercato. Secondo la vigilanza di Francoforte ne serviranno ben 8,8, lo Stato ne investirebbe 6,3, il resto dovrebbe arrivare dagli obbligazionisti. Cercheremo di capire allora nel nostro primo approfondimento come sia possibile che in pochi giorni possano cambiare così le cifre. Ricordiamo che anche oggi e ancora per molto il titolo Monte dei Paschi è sospeso a Piazza Affari. Le associazioni dei consumatori intanto denunciano il salvataggio costa 333 euro pro capite. Dicevamo di Piazza Affari, diamo uno sguardo rapido allora alla giornata di contrattazioni che vive comunque un andamento che definirei sonnolento in questo momento. Il FTSE MIB più 0,14%, i migliori e i peggiori, vediamo insieme del FTSE MIB Mediaset più 3,49%, Saipem più 1,66%, poi Buzzi Unicem, Telecom Italia più 1,28%, Fiat Chrysler Automobile più 1,22%, i peggiori del listino, parliamo sempre logicamente del FTSE MIB, Banca Popolare di Milano meno 4,63%, Banco Popolare meno 4,25%, poi via via UbiBanca, Unicredit e Mediobanca. I più scambiati sono Mediaset, Banca Popolare di Milano, Eni, Telecom, Fiat, Chrysler e Enel. Grande attenzione su Parmalat che balza del 10%. Allineandosi al prezzo dell'OPA lanciata dai francesi di Lactalis che sono già azionisti di maggioranza assoluta del gruppo di Collecchio. Vediamo ora insieme gli altri listini europei: DAX Francoforte più 0,21%, FTSE 100 di Londra, oggi Londra è chiusa, ha di fatto allungato le festività natalizie, allora il CAC 40 di Parigi più 0,21%, l'IBEX di Madrid più 0,11%, Wall Street positiva, Dow Jones più 0,17%, Standard & Poor's 500 più 0,38%, il Nasdaq più 0,75%, i cambi ci interessa in particolar modo l'euro su dollaro 1,045905. E sin qui gli andamenti al momento delle borse. Altro argomento della puntata di oggi di Focus Economia, l'andamento economico del mezzogiorno. Analizzeremo le stime di uno studio su questo di Confindustria, realizzato insieme ad Intesa San Paolo, che conferma una ripartenza per quest'area del nostro paese. Poi ancora pochi giorni alla chiusura del 2016 e come sempre il governo si appresta a varare il decreto mille proroghe che permette di dare nuova vita a tanti provvedimenti in scadenza. Giovedì allora l'appuntamento con il Consiglio dei Ministri, potete scriverci al 349-238-6666 oppure sulla pagina di Focus Economia del sito di Radio24.it. Passiamo ora alle notizie in breve. Notizie in breve che apriamo come tradizione con le materie prime. L'oro allora più 0,7% a $1,139 l'oncia, il petrolio più 1% a $53,6 il barile. L'economia internazionale, i profitti dalle imprese industriali della Cina nel mese di novembre sono saliti del 14,5% rispetto all'anno precedente, lo rende noto l'Istituto Nazionale di Statistica cinese. Ad ottobre la crescita era stata del 9,8%, nei primi 11 mesi del 2016 i profitti industriali sono saliti del 9,4% rispetto allo stesso periodo del 2015. Rimaniamo in Asia, il colosso giapponese Toshiba sta valutando la possibilità di raccogliere fondi per una strategia di capitale per affrontare la svalutazione di miliardi di dollari dalla sua unità americana che si occupa di nucleare, la Westinghouse. Lo si legge in una nota del gruppo giapponese che negli ultimi anni ha acquistato per miliardi di dollari diverse società americane attive nel settore dell'energia atomica. L'amministratore finanziario di Toshiba, Masayoshi Hirata, parlando con la stampa, ha detto di non escludere la possibilità di un patrimonio netto negativo. Le azioni del gruppo hanno perso oltre il 12% sulla borsa di Tokyo. Stati Uniti, la fiducia dei consumatori americani, misurata dal Conference Board, è salita in dicembre a 113,7, ai massimi dal 2001. Il dato è superiore alle attese degli analisti che scommettevano su quota 109. In particolare ci soffermiamo ora sul dollaro. Il dollaro da diverse settimane segna degli andamenti decisamente positivi, aumentano però i rischi per l'industria manifatturiera americana. Il biglietto verde è salito a livelli non visti negli ultimi 14 anni con la vittoria di Trump alle elezioni e ora per così dire minaccia proprio Trump, complicando la sua politica per riportare posti di lavoro negli Stati Uniti. Anche se il dollaro forte rende componenti prodotti all'estero meno costosi per le aziende americane, rende allo stesso tempo i prodotti americani più costosi all'estero, danneggiando le aziende che derivano la maggior parte del proprio fatturato fuori dai confini degli Stati Uniti. I primi segnali sono già evidenti, con alcune società che hanno messo in guardia sulle ripercussioni del dollaro forte. Parliamo della Boeing, che nei giorni scorsi ha parlato di crescente concorrenza per la riduzione dell'8% della forza lavoro nella divisione aerei commerciali. E Trump però in queste ore, in questi giorni, twitta. Vediamo allora cosa scrive. Il mondo era triste prima che io venissi eletto, era senza speranza. Lo ha scritto proprio Trump in un tweet in cui si attribuisce il merito di aver fatto salire gli indici borsistici e di aver stimolato la fiducia dei consumatori. Ora il mercato è cresciuto di quasi il 10% e la gente ha speso più di 1.000 miliardi di dollari per Natale. Queste le parole di Trump. Il presidente eletto se la prende poi con l'ONU e dice, in un tweet accusa l'ONU di essere diventato solo un club per gente che si ritrova, chiacchiera e si diverte. Che tristezza, anche se a suo avviso avrebbe un grande potenziale. Venerdì scorso il futuro presidente americano aveva detto che per quel che riguarda l'ONU le cose saranno diverse dopo il 20 gennaio, giorno del suo insediamento. Ora la Russia tornerà a crescere nel quarto trimestre del 2016, lo riporta la Banca Centrale Russa, che indica la contrazione totale del PIL nell'arco del 2016 dello 0,5-0,7%, in linea con la previsione pubblicata nel rapporto di politica monetaria di dicembre. Ci avviciniamo alle notizie relative al nostro paese. L'ultima notizia di economia internazionale arriva dall'Argentina. Il ministro argentino del Tesoro Alfonso Prat-Gay si è dimesso dal suo incarico su richiesta del presidente Mauricio Macri per questioni di divergenza politica. Lo ha annunciato il capo del gabinetto presidenziale Marcos Peña in una conferenza stampa. Il presidente gli ha chiesto le dimissioni per questioni di divergenze politiche. Non si tratta di dissensi all'interno del governo, bensì del modo in cui si deve organizzare il lavoro all'interno del gabinetto. E veniamo al nostro paese con i dati di Confindustria e SRM, un istituto vicino al gruppo Intesa San Paolo, con l'ultimo check-up sul Mezzogiorno, ed è questo un argomento che tratteremo anche nell'ultima parte della nostra trasmissione. Ma comunque vi do un'anticipazione: per la prima volta dall'inizio della crisi tutti e cinque gli indicatori utilizzati per monitorare l'economia del Mezzogiorno, quindi PIL, export, occupazione, imprese e investimenti, fanno registrare valori positivi. Secondo le stime dovrebbe quindi proseguire quest'anno, sia pure più lentamente, più 0,5% la crescita del prodotto registrata nel 2015, e buone notizie anche per il 2017, dove la crescita dovrebbe essere del più 0,7%. Nel corso del 2017 gli italiani dovranno mettere in conto una stangata pari a circa 986 euro a famiglia per gli aumenti dei prezzi delle tariffe, lo afferma il Codacons, secondo il quale l'anno prossimo si assisterà alla ripresa dei prezzi al dettaglio, rimasti sostanzialmente fermi nel corso dell'intero 2016. Altro argomento molto delicato, oggi se ne parla molto sulle pagine di tutti i quotidiani, è quello dei voucher. Abrogarli no, perché hanno il merito di far emergere prestazioni che prima venivano fatte solo in nero, però i numeri dimostrano che c'è stato un abuso e il legislatore deve avere la coscienza di tornare sui suoi passi quando si accorge che gli effetti sono opposti a quelli previsti, risponde così al Corriere della Sera Maurizio Del Conte, presidente dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro. A suo avviso potrebbero essere espressamente esclusi alcuni settori come l'edilizia. Bisogna impedire che i voucher vengano utilizzati al posto di contratti più stabili. Poche settimane fa, utilizzando i voucher, aggiunge sempre del Conte, il Comune di Napoli ha promosso un piano di manutenzione del proprio patrimonio. Abbiamo esagerato. Lo abbiamo visto nella nostra anticipazione relativa all'andamento di Piazza Affari. Sofil, quindi Lactalis, ha annunciato un'OPA totalitaria sul 12,6% del capitale non ancora posseduto di Parmalat a 2,8 euro per azione, con un premio dell'8,5 sul prezzo di borsa dello scorso 23 dicembre, e il mercato sta comunque premiando Parmalat, che è uno dei titoli più scambiati. Per quanto riguarda l'Italia, oggi nuovo incontro tra i vertici e i sindacati dopo l'ultimo incontro sostanzialmente interlocutorio di giovedì 22 dicembre. Infine i pagamenti online e le nuove tecnologie. Pochi secondi per effettuare pagamenti transfrontalieri in Cina utilizzando la tecnologia Suite GPI. C'è riuscita Intesa San Paolo, che ha effettuato un pagamento per conto del gruppo Candy verso una filiale di Bank of China a Pechino in meno di 8 secondi, si legge in una nota, al netto dei controlli di legge, mentre la ricevuta di ritorno è giunta dopo solo 8 minuti. Un primo passo verso l'impiego della tecnologia cloud, che consentirà di ricevere conferme di pagamento in tempo reale a partire dal prossimo 22 maggio. E questa era la nostra ultima notizia per quanto riguarda le notizie. In breve passiamo al nostro primo approfondimento. Nostro primo approfondimento che ruota e si concentra su Monte dei Paschi di Siena ed è una notizia che sviluppiamo grazie soprattutto proprio alle anticipazioni del Sole 24 Ore, perché la Banca Centrale Europea ha comunicato ieri con una lettera al Monte dei Paschi che la ricapitalizzazione dovrà ammontare a 8,8 miliardi e non 5 come chiesto inizialmente. Francoforte ha infatti prescritto a MPS di ripulire il proprio bilancio liberandolo dai crediti deteriorati che secondo gli schemi senesi approvati a luglio-ottobre verrebbero ceduti al 33% del loro valore. Tutto ciò comporta il bisogno di un rafforzamento patrimoniale, in particolare 6,3 miliardi serviranno per aumentare il livello di solidità patrimoniale, altri 2,5 miliardi come cuscinetti per assorbire eventuali ulteriori perdite sui crediti deteriorati. Ma comunque della storia di Monte dei Paschi ne sa molto più del sottoscritto, il collega del Sole 24 Ore Marco Ferrando, che saluto e ringrazio. Ciao Marco. Ciao, buonasera a tutti. Marco, com'è possibile allora, ma te lo domandi anche tu sulla prima pagina del Sole 24 Ore di oggi, che in pochi giorni si sia passati da un 5 miliardi che sembravano sufficienti anche per la Banca Centrale Europea di aumento di capitale per Monte Paschi a 8,8? Partiamo da qui. Ma una spiegazione c'è, il fatto che nessuno si immaginava nelle settimane scorse di sentirsela dare dalla BCE, nel senso che fino a un mese fa, quindi alla vigilia dell'assemblea che il 24 novembre aveva approvato il piano di mercato da 5 miliardi, la BCE aveva detto appunto 5 miliardi bastano per affrontare la terapia d'urto, perché già in quel caso lì si trattava di una terapia d'urto destinata a incidere su una situazione comunque di carenza di capitale, perché non dimentichiamo che comunque i problemi il Monte li ha e non sono piccoli. una situazione di carenza di capitale che era emersa con gli stress test dell'estate. Perché alla BCE prima andava bene? Perché di fatto il monte, all'epoca c'era Viola, era l'estate, aveva pensato di giocare d'attacco, cioè di partire con una maxi cartolarizzazione che avrebbe fatto uscire dalla banca tutte le sofferenze, perlomeno tutte le sofferenze che figuravano nei libri al 31 marzo, e nel frattempo potrebbero essere aumentate, ma questo è un altro discorso. Quindi di farlo uscire con una maxi cartolarizzazione che avrebbe generato un fabbisogno di capitale di 5 miliardi. Certo. E quindi la BCE andava bene, tu togli quello che io voglio che tu tolga, si crea un buco di capitale che tu mi vieni a colmare, e quel buco era stimato in 5 miliardi. Decaduto questo piano, perché di fatto la settimana scorsa la banca ha alzato bandiera bianca, il mercato quei 5 miliardi non era disposto a darli, si torna da capo, cioè la situazione di luglio. Non solo, ma si torna in una situazione in cui il piano di cartolarizzazione, diciamo, è congelato, perché evidentemente col nuovo assetto azionario, con lo Stato, si dovrà rimettere mano e ristudiare. A quel punto si torna a quella situazione lì, e quindi alla Monte dei Paschi, finita in fondo alla classifica degli esami degli stress test di luglio, con un CET1, che è il requisito di capitale, addirittura negativo. Ebbene, la BCE ha detto: la situazione è quella, io ti chiedo una terapia analoga a quella che ho chiesto 2 anni fa alle banche greche, quando è intervenuto lo Stato. E quindi non solo ti chiedo di tornare ai requisiti minimi fissati per tutte le banche, ma ti chiedo addirittura di fare meglio, proprio perché interviene lo Stato. E qui si arriva appunto agli 8 miliardi e 8. E non dimentichiamo che lì dentro c'è anche la quota di subordinati, che non sono azioni ma sono i titoli che subito vengono dopo per rischio, che verranno comunque bruciati, perché è chiaro che la banca attinge a quel cuscinetto, non c'è più, va ricostituito. E quindi così si spiega come mai si arriva a 8,8 miliardi. Certamente. Adesso leggo insieme a te, Marco, una notizia uscita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dove si dice: il perimetro del fondo per le crisi bancarie è istituito con il decreto salva risparmi, è stato disegnato in modo ampiamente sufficiente a far fronte a tutte le esigenze di intervento che dovessero emergere dalle situazioni attualmente sotto osservazione da parte delle istituzioni. Lo precisano fonti del MEF a proposito proprio del fondo da 20 miliardi che potrà essere sfruttato per ricapitalizzazioni precauzionali, come quella richiesta dal Monte dei Paschi. Ma dicevamo, Marco, questo sin qui il Ministero, che dice i soldi ci sono e saranno sufficienti. Ma facciamo un passo indietro: al di là della cifra dei 5 miliardi o degli 8 miliardi, gli NPL, ovvero i non performing loans, sono comunque ancora nella pancia di MPS. E quindi una domanda che ci chiedono anche gli ascoltatori: comunque si dà per scontato che questa massa di crediti deteriorati venga comunque poi collocato sul mercato? C'entra qualcosa questo sul cambiamento tra i 5 e gli 8,8 miliardi? Diciamo che si ragiona alla rovescia, nel senso che gli NPL erano e rimangono il primo problema del monte. Quindi BCE dà per scontato che chi governerà sulla banca, quindi lo Stato, da marzo, aprile, quando avverrà formalmente l'immissione degli 8,8 miliardi, di cui circa 6,5 da parte dello Stato, ecco, chi governerà sulla banca metterà mano al problema. Proprio per farlo ha chiesto di mettere tutte queste risorse in più. Di fatto, quando arriveranno gli 8,8 miliardi tra risorse pubbliche e obbligazioni convertite, la banca per qualche mese avrà un coefficiente di patrimonio di vigilanza del 22%, 22-23%. Vuol dire che sarà la banca più patrimonializzata d'Europa, perlomeno tra le grandi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che avrà abbastanza patrimonio per poter vendere, gestire in proprio, cartolarizzare, decideranno loro come fare, comunque per smaltire tutti quei 27 miliardi di crediti di sofferenze lorde che erano state messe al centro della cartolarizzazione. C'è un problema però, che anzitutto si sposta in avanti il momento in cui fisicamente avviene questa dismissione, perché non dimentichiamo che nel caso in cui fosse andato in porto il piano privato, in queste ore di fatto la banca già non avrebbe più quei titoli, quei crediti sarebbero stati ceduti a un veicolo apposito. Quindi la situazione sarebbe stata ben diversa e, mi viene da dire, decisamente migliore. Invece si ritarda, ma non solo, aumentando comunque il capitale, sarà evidentemente molto difficile per la banca non solo restituirlo, perché non dimentichiamo che la capitalizzazione a carico dello Stato è temporanea, è un conto è restituire 3-4 miliardi, un conto è restituire 6,5, ma non dimentichiamo anche che nelle prossime settimane con la DG Competition di Bruxelles, con la Commissione Europea, andrà messo nero su bianco un piano che consenta a fine piano, quindi poi di 2 o 3 anni, di remunerare tutto il capitale proprio in vista di un ritorno sul mercato. E oggi per una banca remunerare il capitale è difficilissimo, remunerarne tanto è ancora più difficile. È ancora più difficile, certo. Marco, allora andiamo per ordine. 3 domande, 2 proprio su questo aumento di capitale e l'altra poi sui dubbi dell'Europa. Allora, parliamo di 6,5 miliardi su per giù da parte dello Stato e 2,5 da parte comunque del mercato, perché ricordiamo che allora l'operazione che si era chiusa il 22 dicembre sarà comunque recuperata, quel 2,5 miliardi saranno comunque, arriveranno dal mercato? Sarà recuperata in parte, nel senso che l'operazione, per come era stata congegnata le settimane scorse, prevedeva una conversione volontaria, per cui tra istituzionali e retail, quindi risparmiatori nella seconda finestra, si era chiesto chi era disposto a convertire. Adesso la conversione diventa obbligatoria, ma a condizioni differenti, per cui agli istituzionali che hanno in mano alcuni particolari titoli emessi in modalità tali perché finissero nelle mani degli istituzionali, quindi bisogna comprarne tanti a determinate condizioni, la conversione sarà obbligatoria al 75%. Quindi ad esempio Generali, che ha 400 milioni di un titolo in particolare subordinato, si vedrà quei 400 milioni di obbligazioni trasformate in 300 milioni di capitale del Monte. Invece per i 2 miliardi e 200 milioni che sono in mano ai risparmiatori verranno convertiti in azioni, ma a quel punto lo Stato, in quanto attraverso la banca, quindi con la banca che controllerà, proporrà di scambiarle con obbligazioni senior, quindi non più subordinate. Quindi io risparmiatore che mettiamo 10.000 euro me li vedrò convertite in azioni, ma mi verrà al tempo stesso offerto di scambiare quelle 10.000 euro di azioni in 10.000 euro di titoli senior. Quindi di fatto mi ritroverò con la stessa cifra che avevo investito all'inizio, ma con un titolo molto meno rischioso. Certamente. Per quanto riguarda la parte che mette lo Stato, è giusto dire lo Stato salva Monte dei Paschi, Marco Ferrando, collega del Sole 24 Ore, oppure si può dire lo Stato presta dei soldi a Monte dei Paschi perché poi evidentemente li dovrà restituire? Ovvero, la domanda che molti ci fanno, paghiamo noi contribuenti la mala gestione degli anni passati di Monte Paschi o solamente un prestito al momento? Questa è una buona domanda, dovremmo aggiornarci fra un annetto per vedere a che punto stiamo. Diciamo che le condizioni previste anche proprio dalla normativa europea al riguardo prevedono che la ricapitalizzazione sia temporanea. Non risulta esserci una scadenza, quindi non viene specificato, almeno non risulta che entro un anno, 2 anni, insomma l'orizzonte potrebbe essere quello, la banca debba restituirli, ma certo è che un domani la Commissione potrebbe chiedere vengano restituiti e quindi sarebbe un prestito. Torno a ripetere, come accennavo prima, che comunque oggi per una banca è molto difficile remunerare il capitale, le banche sappiamo quanto poco sono apprezzate sul mercato, quindi di lì a essere sicuri che in tempo appunto 12, 24, 36 mesi lo Stato sia sicuro di rientrare dell'investimento o del prestito fatto al Monte, ce ne vuole, perché le premesse sono, ripeto, molto molto difficili per tutte le banche, per il Monte che ha problemi strutturali superiori alla media ancora più difficili. Marco, allora resta con noi altri 5 minuti, io darei la linea al meteo e così poi torniamo a parlare dei dubbi che ha l'Europa proprio su questa operazione. Focus Economia. Vi 17.33, di nuovo insieme Focus Economia. Soprattutto siamo insieme a Marco Ferrando, collega del Sole 24 Ore. Stiamo parlando di Monte dei Paschi di Siena, stiamo cercando di capire le ultime novità, l'aumento di capitale, i miliardi indicati dalla Banca Centrale Europea, la necessità di passare da 5 miliardi a quasi 9 miliardi. Di fatto, Marco, sono molte le domande al nostro 349 238 6666, soprattutto sui crediti cosiddetti inesigibili. Si vorrebbe sapere per esempio i nomi di chi è possessore di questi crediti, perché non si riesce a rientrare proprio da questi creditori prima che l'istituto sia costretto di fatto a trovare un mercato parallelo di questi prodotti. Ma sono argomenti questi, Marco, immagino io, che riguardano anche altri istituti del nostro paese. Ma la domanda che ti volevo fare, e con la quale ci eravamo lasciati poco fa, i dubbi dell'Europa, soprattutto anche in particolare della Germania. Ti leggo un'agenzia del presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, che in un'intervista a Bild ricorda che i fondi statali sono e devono restare come ultima risorsa. Secondo te, Marco, vi saranno degli ostacoli da parte europea? Ma un primo diciamo successo ottenuto dall'Italia nel confronto con, in questo caso, la Commissione europea c'è stato la settimana scorsa, perché di fatto il decreto che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri giovedì notte registra l'accordo avuto, appunto, raggiunto con la Commissione europea, e si tratta di un successo perché di fatto l'Italia ha ottenuto di poter immettere risorse pubbliche, quindi ottenere una deroga in materia di aiuti di Stato in cambio di una condivisione del rischio, cioè di burden sharing, diciamo modesto, perché ne parlavamo prima: il 75% di conversione per gli istituzionali e il 100% di rimborso ai risparmiatori. Oggettivamente è un trattamento, direi, non troppo rigoroso richiesto da parte della Commissione europea. Quindi questo è arrivato, se no il Consiglio dei Ministri non avrebbe potuto, certo, approvare il decreto. Certo è che di qui ai prossimi due mesi si dovrà negoziare in concreto il piano che aspetta la banca. E da un lato quello che è arrivato dalla BCE ieri dimostra che anche Francoforte, anche la BCE che vigila su questa situazione, non è disposta a fare sconti, anzi. Inoltre il piano in concreto andrà discusso con la Commissione europea, quindi si prenderanno i numeri del Monte Paschi, gli obiettivi, la chiusura di filiali, gli esuberi, le uscite anticipate del personale. Sicuramente la Commissione europea chiederà, proprio in cambio della deroga sui utili di Stato, una cura non meno incisiva di quella che era stata prevista a ottobre nel vecchio piano che accompagnava l'aumento di mercato da 5 miliardi. Quindi sicuramente, se ci sono, come ci sono, dei mugugni, soprattutto da parte tedesca, che come sappiamo sono sempre più perplessi quando c'è da uscire dalla linea del rigore, se ci sono questi mugugni verranno fatti valere in tutti i numerosi passaggi che ancora aspettano l'ingresso dello Stato nel Monte. Certamente. Per rispondere ad una domanda al 349 238 6666, che succede a me che sono azionista MPS, c'è un report fatto dagli analisti di Equitalia Sim, considerando che l'aumento di capitale di MPS sarà da 8,8 miliardi, allora le nuove azioni, secondo Equitalia Sim, saranno emesse ad un prezzo di 17,4 euro e il numero di azioni della banca salirà da 29 milioni a 527 milioni. Questo lo ricordiamo, un report degli analisti di Equitasim. Per chiudere con il collega Marco Ferrando del Sole 24 Ore, se il decreto prevede una disponibilità per il sistema bancario di 20 miliardi e 6,5 andranno a MPS, il resto dei fondi che utilizzo avranno, Marco? Sì, se posso un cenno rapidissimo sugli azionisti: rimarranno azionisti ma evidentemente marginalizzati, perché quando entra un azionista con 6 miliardi più gli obbligazionisti con 2 miliardi, è chiaro che i 500 milioni che quota la banca oggi sono destinati quasi a sparire, quindi purtroppo toccherà sorte analoga a quella degli azionisti di Veneto Banca Popolare Vicenza quando è entrato Atlante. E le due venete, per restare in tema, rimangono lì come il problema numero due del sistema bancario, quindi potrebbero essere i prossimi destinatari dell'intervento del fondo, anche se le variabili sono molte, nel senso che per esempio il decreto prevede che per poter beneficiare dell'intervento devi essere stato bocciato in una prova di stress, e al momento questo formalmente perlomeno non risulta per le due venete, anche se c'è chi parla di stress test informali. Insomma, si vedrà. Diciamo che sicuramente l'elenco dei potenziali beneficiari passa per le venete e per un po' di banche del centro Italia, che non se la passano benissimo, e Carige, Cassa Risparmio di Genova, certo, che rimane anche lì con un'interlocuzione molto fitta con la BCE su un piano di risanamento. Quindi purtroppo i beneficiari potenziali non mancano. Oggettivamente, su somme comunque molto inferiori a quelle del Monte, nonostante tutto quello che possa inventarsi la BCE, e quindi quello che ha detto il MEF oggi, che 20 miliardi bastano, per ora mi sembra assolutamente sensato. Dovrebbe essere così. Grazie a Marco Ferrando. Noi chiudiamo questo approfondimento e passiamo alla giornata in borsa. Giornata in borsa che andiamo ad approfondire con il collega Guido Maurino di Radio Core, Il Sole 24 Ore. Buon pomeriggio, Guido. Buon pomeriggio. Guido, guardando celermente i listini, mi sembrano tutti in terreno positivo a partire da Milano. Sì, oggi è stata una giornata positiva, anche se senza grossi sussulti per le borse europee. C'era stato un avvio buono con listini in rialzo. Le conferme arrivate nel pomeriggio con l'apertura di Wall Street, che è stata positiva, anche perché il dato sulla fiducia dei consumatori americani ha mostrato un balzo inatteso, si tratta del valore più alto dal 2001, quindi i consumatori americani restano fiduciosi sulle prospettive dell'economia, e anche le borse europee hanno tratto da questo aspetto ulteriori spunti per una leggera salita. Il FTSE MIB ha chiuso a più 0,24%, il FTSE Share a più 0,31%, e prestazioni analoghe sono state registrate anche da Parigi e Francoforte, mentre Londra, lo ricordiamo, oggi era ancora chiusa per festività. Ecco Guido, guardando i peggiori del FTSE MIB, proprio sul sito del Sole 24 Ore, leggo che sono tutti dei bancari. Sì, appunto, lo dicevate prima parlando di Monte dei Paschi. Quello che sta succedendo a Monte dei Paschi ha delle ripercussioni anche sul resto degli istituti di credito, soprattutto questa richiesta arrivata dalla BCE di 3,8 miliardi in più rispetto alla ricapitalizzazione da 5 miliardi che era già stata prevista dal Monte, ha fatto sì che si sia creata un po' di incertezza sul settore bancario. Lo si è visto in modo particolare oggi su Banca Popolare di Milano, che ha ceduto il 3,95%, ma anche il Banco Popolare ha chiuso in calo del 3,7%, istituti comunque considerati grandi e solidi come UbiBank ha ceduto lo 0,57%, Unicredit lo 0,49%, anche Intesa San Paolo ha chiuso in calo dello 0,33%. Ecco, la prima notizia che è arrivata questa mattina e che ci ha colti un po' tutti di sorpresa, anche se però era comunque nelle cose, riguarda Parmalat con l'OPA totalitaria lanciata dalla società che già ne deteneva la maggioranza, Lactalis. E poi come è andata la giornata per Parmalat? Sostanzialmente il titolo si è allineato prima al prezzo dell'offerta, quindi a 2,8 euro che è il prezzo dell'offerta, e sul finale ha ancora aggiornato il valore a 2,83 euro per azione, segno che qualcuno scommette che ci possa essere una richiesta magari dagli azionisti di minoranza di rivedere al rialzo il prezzo dell'offerta di Parmalat. In valori percentuali Parmalat ha chiuso a più 10,12%, come dicevi tu non è così una grande sorpresa, perché da tempo si scommetteva su un possibile lancio di un'offerta pubblica su Parmalat, visto che i francesi di Lactalis hanno già oltre l'87% delle quote. C'erano delle questioni legate ancora al vecchio concordato di Parmalat quando finì in crack finanziario, che rendevano difficile l'operazione. Non è ancora chiaro se queste condizioni oggi siano già risolto, siano su una strada di risoluzione. Fatto sta che i francesi oggi hanno deciso di lanciare l'offerta e bisognerà vedere adesso con i vari prospetti e come si comporteranno azionisti di minoranza che per Parmalat sono sempre stati molto battaglieri. Guido, veniamo alla vicenda che ci portiamo dietro da diverse settimane, quella di Mediaset Telecom barra Vivendi. Vi era stata una certa frenata prima di Natale, comunque sulla richiesta soprattutto dei titoli Mediaset, seppur sempre in terreno positivo. Oggi invece vedo che si è tornati a correre su questo aspetto. Sì, si è tornati a correre, il titolo Mediaset ha guadagnato il 2,79% ed è stato il migliore del listino principale, bene anche Telecom Italia che ha guadagnato l'1,46%. Tutti restano inchiodati a osservare cosa farà Vivendi dopo essersi portata a ridosso della soglia di OPA su Mediaset. Il gruppo francese non ha ancora chiarito se è pronto a compiere il grande passo, quindi a far scattare un'OPA oppure no. Sullo sfondo rimangono anche tutta una serie di questioni regolamentari, quelli sulla concentrazione ad esempio del mercato dei media che impedisce a uno stesso soggetto di controllare ad esempio sia Telecom Italia che Mediaset. Ci sono una serie di ipotesi che in questo momento si fanno, dall'ingresso di Fininvest in Telecom Italia piuttosto che dall'ingresso della Cassa Depositi e Prestiti in Telecom Italia per difendere la società. Certo. Ci sono varie ipotesi che comunque al momento non si sono ancora concretizzate, ma che contribuiscono a tenere alta l'attenzione sui due titoli. E Guido, chiudiamo con due titoli, con due accordi, uno che riguarda Tiscali e l'altro Leonardo Finmeccanica, per diversi motivi, se non sbaglio, hanno beneficiato entrambi proprio di accordi che li riguardano. Sì, Tiscali ha guadagnato il 3,14%, ha fatto un accordo con la società Engineering per la gestione dei servizi di Information Technology. Si tratta di una questione molto industriale, quasi tecnica, che però secondo appunto gli analisti può avere un impatto di circa il 3% sul margine operativo lordo del 2017 e quindi ha contribuito oggi a spostare alcuni acquisti su Tiscali. Per quanto riguarda Leonardo Finmeccanica, ha guadagnato lo 0,59% dopo aver acquistato il restante 60% che ancora non deteneva nel capitale di Sistemi Dinamici. Si tratta di una società che è molto attiva negli elicotteri senza pilota, nei dispositivi senza pilota, per cui un'occasione per Leonardo Finmeccanica di crescere in questo particolare settore. Perfetto, perfetto. Grazie a Guido Maurino, collega di Radio Core Il Sole 24 Ore. Noi ci fermiamo per il traffico. Focus Economia. Di nuovo insieme Focus Economia, parliamo ora del Mezzogiorno, una zona del nostro paese che mostra segnali promettenti di ripresa. Ne parliamo con Stefan Pan, vicepresidente e presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le politiche di coesione territoriale di Confindustria. Buon pomeriggio, presidente. Buon pomeriggio a tutti. Presidente, allora, questo studio pubblicato oggi da Confindustria e dal SRM, il centro studi collegato al gruppo Intesa San Paolo, ci dice che comunque tra il 2015 e l'anno che si sta per chiudere, il Mezzogiorno mostra dei segnali comunque promettenti di ripresa. Sì, la ripresa c'è, ancora timida, ma c'è ed è ben sviluppata su vari settori. C'è un indice sintetico che esprime molto bene la fotografia del Mezzogiorno. Questo indice sintetico raggruppa lo sviluppo del PIL, dell'export, dell'occupazione, del numero delle imprese che nascono, che ci sono e gli investimenti. Tutti i cinque elementi sono positivi. Questa è la prima volta che succede da tanto tempo. Nell'ultima rilevazione che avevamo fatto mancava all'appello il plus, lo sviluppo negli investimenti, adesso anche gli investimenti sono partiti, quindi è una base di partenza molto buona perché tutto è in movimento col segno più. Logicamente, Presidente, siamo lontani sia per il Mezzogiorno che per l'intera penisola dagli andamenti degli anni pre-crisi, ma per quanto riguarda il Mezzogiorno, ecco, stiamo assistendo ad un biennio e, secondo le vostre stime, anche il 2017 dovrebbe proseguire nel trend positivo. Sì, abbiamo ovviamente da recuperare molto da quando è partita la crisi. Abbiamo perso, il Meridione ha perso il 12,3% del PIL, ma il fondo valle è stato ormai toccato e incomincia la risalita. E questo è la precondizione per poter creare quello di cui tutti abbiamo bisogno, la fiducia. Quando tutti gli indici sono positivi, questo è un segno che il territorio ha saputo reagire bene, ci sono le ricette che funzionano. Questo adesso possiamo raccontarlo per dare positività specialmente ai giovani, che sono quelli che al momento subiscono di più la crisi, e per coloro che in questo modo si apre una nuova prospettiva di crescita molto forte e che può sprigionare il potenziale grandissimo che il Meridione ha. Ecco, guardando nello specifico i numeri del vostro studio, si evidenzia la positività del settore manifatturiero, una positività che addirittura nel Mezzogiorno supera come crescita percentuale quella che avviene nel Centro-Nord. Giusto, il manifatturiero cresce del 3,5% e fa meglio del 2,2% del Centro-Nord. E il manifatturiero è quell'ambito che ha la capacità di creazione di posti di lavoro, quello di cui tutti abbiamo bisogno. Le imprese sono quelle che assorbono e il numero delle imprese sta lievitando. Abbiamo su una base di quasi 1.700.000 imprese, altre 10.000 imprese che sono nate. Abbiamo molte imprese di giovani che nascono, abbiamo molte imprese start-up che nascono. Quello che dobbiamo cercare di fare è di crescere di dimensione, quindi fare squadra, perché un altro elemento dell'analisi che abbiamo fatto, dove c'è la squadra, dove ci sono i distretti, dove ci sono le imprese che fanno rete, c'è una spinta maggiore, c'è una crescita maggiore. Quindi non necessariamente deve crescere la singola impresa, ma è importante che sia inserita in una rete che le dia il giusto sostegno per essere competitiva sul mercato. Serve la competitività del territorio, e questo è essenziale, ma sono le imprese che nascono piccole, tutte nascono piccole, ma poi devono crescere. E questa crescita, se fatta in gruppo, se fatta in squadra, è più facile. Abbiamo dei settori che lavorano meglio, le imprese che sono più strutturate possono permettersi di affacciarsi all'export, e quelle che lo fanno in modo particolarmente buono. Il Meridione in questo caso nell'ultimo trimestre ha perfino registrato un aumento del 10% del crescita dell'export, che è un dato eccezionale, che è un dato che di lunga superiore a quello del resto del paese. E se si va a analizzare l'export più in dettaglio, si vede che è un export che è anche quello molto stabile, perché ha parecchie colonne portanti. Se si toglie il mercato degli idrocarburi, che con il calo del petrolio hanno avuto una flessione, certo. Si vede che questo settore è riuscito a strutturarsi e a diventare forte. Ci sono alcuni settori poi specifici del Meridione, abbiamo fatto un'analisi approfondita sul settore della farmaceutica, che a livello europeo è perfino leader. Abbiamo avuto una crescita dall'inizio della crisi, mai di flessione, ma sempre di crescita in questo settore, in cui anche qui si vede il potenziale che il Meridione riesce a esprimere. Se ci sono persone che hanno fiducia, sono comunque ben preparate, possono crescere in modo molto forte e diventare esempio di quella potenzialità ancora in tanti settori inespressa che è il nostro Meridione. Grazie a Stefan Pan, vicepresidente di Confindustria. Noi andiamo avanti con Focus Economia e cambiamo argomento. Ultimo spazio dedicato al decreto mille proroghe, pochi giorni alla chiusura del 2016 e come sempre il governo si appresta a varare questo decreto che permette di dare nuova vita a tanti provvedimenti in scadenza. Giovedì dovrebbe essere il giorno giusto con il Consiglio dei Ministri. Chiediamo conferma al collega Giovanni Parente del Sole 24 Ore. Buonasera Giovanni e grazie per la tua partecipazione. Buonasera, grazie a voi. Sì. Giovedì dovrebbe essere il giorno in cui il Consiglio dei Ministri esaminerà il testo del decreto legge mille proroghe, un appuntamento mai fisso ogni fine anno, e che contiene una serie di interventi che vanno appunto, come dice lo stesso nome, a prorogare misure insomma su cui non è stata raggiunta un'attuazione nel corso dell'anno o cui non sono emerse nuove necessità. Ad esempio è il caso delle nuovi adempimenti sull'IVA, sulle comunicazioni IVA che debutteranno nel 2017, ma che hanno già suscitato fortissime polemiche da parte dei professionisti, tanto da portarli a minacciare per la prima volta uno sciopero per fine febbraio. In questo caso si dovrebbe intervenire a mitigare il primo invio dei dati sulle fatture emesse e ricevute, rendendo l'adempimento, portando appunto il numero degli invii tre a due per il prossimo anno. Naturalmente c'entra di tutto nella mille proroghe. Vedo la proroga dei contratti dei precari della pubblica amministrazione. Poi Giovanni, lo scrivi anche tu sul Sole, la questione, il nodo dei termini per l'installazione dei sistemi di termoregolazione nei condomini che interessa un po' tutti. Esatto, cioè è uno dei problemi aperti, anche perché insomma al 31 dicembre bisognerebbe appunto essere in regola con le cosiddette termovalvole e come riportiamo oggi sulle 24 ore ci sono diverse centinaia di migliaia se non milioni di unità abitative che non sono tuttora in regola. Conferivisti ha chiesto una proroga, un allungamento della scadenza per poter avere appunto più tempo per potersi mettere in regola. Il cantiere è comunque aperto, ci sono anche altre misure che riguardano dalle banche popolari alla pubblica amministrazione, ma anche alle misure di prevenzione del terrorismo, e insomma sono ore decisive per decidere cosa entrerà in questo decreto e cosa dovrebbe poi eventualmente invece entrare in un altro decreto omnibus che potrebbe essere varato però a inizio del 2017, in cui ad esempio c'è l'annosa questione delle regole fiscali dei nuovi bilanci che dovrebbe essere finalmente risolta. Benissimo, benissimo. Allora vedremo giovedì quanto sarà approvato dal Consiglio dei Ministri. Ringrazio allora Giovanni Parente, collega del Sole 24 Ore. Un ringraziamento anche a Mauro Del Corno per l'assistenza al programma, ad Alessandro Chiappini e Filippo Aureggi in regia. Io mi fermo qui, un saluto da Vincenzo Miglietta. Radio 24, libera la voglia di fare.